Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Magazine, magazine, magazine, puntata penultima per la stagione in corso del Breakfast Club. Oggi lunedì 22 luglio alle 8 e 9 minuti parte la rassegna stampa culturale. Magazine per la spiaggia, magazine per il tempo libero che è impegnato in maniera assolutamente colta. Del resto gli inserti allegati ai principali quotidiani hanno un approfondimento ulteriore. Mi è capitato anche di chiacchierare con altri lettori, hanno avuto la stessa sensazione. Molte volte gli articoli sono anche più approfonditi del quotidiano stesso che li presenta con notizia mordi e fuggi e acchiappa clic, come si dice attualmente, ma hanno in questo caso invece un'estensione e qualcosa che dà di più rispetto a una normale narrazione giornalistica. Nei magazine di oggi, ricollegandoci alle prime pagine dei quotidiani odierni, abbiamo una sorpresa. Ma prima di questa sorpresa, per correttezza volevo aggiungere che il racconto che lessi da bambino, Rikitikitavi, a 6-7 anni, è di Kipling. Ecco, non ho citato la fonte, è del grande scrittore Rudyard Kipling. No, questo giusto, ci tenevo a dirlo, dall'entusiasmo e dall'emozione ho dimenticato questo particolare. Comunque, allora, collegandoci alle prime pagine dove abbiamo visto l'ennesima aggressione fascista, e troviamo invece a pagina 3 qualcosa che magari, riportando nella storia e preistoria delle nostre civiltà, una scoperta e molte volte quanto gli abbagli che troviamo in invece nelle narrazioni più contemporanee vengono smentite, ed è l'articolo di Fabio Genovesi a proposito di un importante ritrovamento. Siamo nel 1934, nel Reich di Hitler, che invece di 1000 anni ne sarebbe durati una dozzina. Ma quel mattino era nel pieno del suo delirante furore. E perché c'è questo paragone tra aspetti dominanti nella Germania? Perché per quanto riguarda la scoperta che è stata ritrovata a Bad Dürrenberg in Sassonia, un operaio che scava per piazzare una conduttura dell'acqua nel nuovo parco termale, l'inaugurazione si avvicina, c'è poco tempo, deve sbrigarsi e improvvisamente comincia a ritrovare dei resti importanti. Scava che te scava, trova questo aspetto votivo di una sepoltura molto particolare. Sicuramente è un uomo, sicuramente è bianco, sicuramente ha avuto un motivo dominante per quello che sarebbe poi da lì in avanti l'aspetto più ariano possibile, no? No, non è esattamente così, no? Diranno sicuramente un guerriero ariano di grande importanza, mentre invece poi non dicono che questa figura stringe al petto un bambino, questa figura ha degli oggetti votivi e non da guerriero, eppure dicono è un guerriero ariano. No, nella tomba non c'era un guerriero ariano, ma una donna immersa nella natura. Poi ricercando e scoprendo, abbiamo parlato del carbonio 14, no, nella puntata precedente, ecco, in Sassonia 9000 anni prima, questa donna, questa figura evidentemente importante, una figura molto rispettata che rappresentava la maternità e la sacralità, era contornata di oggetti quanto mai più preziosi, conservati anche in maniera molto intatta. Questo ha sconvolto, potete immaginare, no? Quanto possa aver sconvolto chi invece immaginava un uomo bianco ariano. No, assolutamente, anche perché ve ne aggiungo un'altra. la pigmentazione della pelle è nera e questo aggiunge per me un ennesimo valore, ma direi proprio che per la Sassonia del 1934 non era esattamente un valore aggiunto. Però è molto curiosa questa cosa, come è curioso l'aeroplano che sta atterrando alle mie spalle, non esattamente alle mie spalle, se no me la darei a gambe, in quanto non amo i velivoli, con tutto il rispetto. Però insomma, magari adesso passa, diamo il benvenuto ai nuovi turisti o passeggeri per la nostra città di Bologna e riprendiamo il dibattito delle idee a pagina 4 della lettura. Appassionati, incantati, percorriamo fino alla fine le pagine di questo, sì, di questo libro scritto con l'accuratezza dagli scienziati, ma insieme con la suspense di un'indagine da detective su un cold case da 9 millenni che attendeva di essere sciolto. Il lavoro è riportato come mistero della sciamana, un viaggio archeologico alle scoperte delle nostre origini. Harald Weller and Kai Michael sono gli autori di questa indagine e di questa analisi. Questa sacralità, adesso l'articolo principale è incentrato su questo caso, no? Ma per quanto riguarda poi l'approfondimento in uno sciamanesimo che viene poi ripreso da movimenti hippie e New Age, rappresentanti come artisti Jim Morrison ne saranno rappresentanti, oltre che di grande qualità musicale, di grande successo di pubblico, anche di una sorta di spiritualità parallela. Lo sciamanesimo ci promette una fuga dal soffocante grigiore dell'oggi verso un passato ancestrale, un mondo ultraterreno, un richiamo così forte nel silenzio tecnologico della solitudine contemporanea. Questo nel long format dedicata a questa scoperta, che per me è la più, anche perché va oltre l'aspetto dello sciamanesimo, ma anche dei contenuti per quanto riguarda la razza, no? È stata completamente smentita, ma altri aspetti, ad esempio Stefano De Matteis indaga tra moda e maestri nativi, hanno ragione i Maori, questo popolo, il popolo del sogno era definita la popolazione Maori, e tanti altri esempi di culture diverse che imparano a dialogare solo in campo neutro. Americano d'origine indiana, Omi K. Baba è tra gli antropologi più influenti in questo magazine della lettura, spiega come un terzo spazio sia essenziale per gestire il pluralismo delle tradizioni e come le narrazioni siano uno strumento di potere. Non solo la tradizione che ci pare a noi, la tradizione si incontra in un campo neutro e sono pienamente d'accordo, di pluralità totale e culturale per conoscersi e non per chiudersi, ma la tradizione in quanto a sé è di un'importanza fondamentale per conoscere noi stessi e va salvaguardata, ma non tradizione per mettere il nome in dialetto sotto le località della Brianza o del Varesotto, quella è mettere un recinto e mettere una chiusura, magari parlare il dialetto sempre con chi ne ha comprensione e nel caso ci sia qualcuno che ci chiede informazioni sul nostro dialetto, darne ovviamente una traduzione e chiedere di rimando invece nel tuo dialetto tutto ciò come si dice e trovarne comparazioni, divergenze, parallelismi. Ecco, in questo la tradizione è fondamentale. Mi sono avvicinato più ai giorni nostri, da 9000 anni fa fino al contemporaneo col primo articolo sulla lettura del Corriere della Sera. A tra poco. Ecco, un venticello che preannuncia un cambio di tempo e di temperature. Mi ha portato quel brivido lungo la schiena. Ho chiuso la finestra, per cui insomma non è polemica, ma l'estate, come la intendo io, è durata 4 giorni. Sensazioni di temperature corporee che sono quanto mai soggettive, per cui insomma mi limito a tutto ciò. Detto questo, a proposito di tradizione, ieri nel superlativo Polinesia Veneta mi sono ritrovato così casualmente a intercettare una conversazione in un perfetto dialetto di Porto Viro. Allora, Porto Viro è un comune a territorio sparso, per cui c'è un dialetto a Donada, uno a Contarina. Certo, sono sfumature, ma se uno da tempo le ascolta inizia a intuirle e a capirle. Beh, insomma, questi in un perfetto dialetto strettissimo lamentavano il fatto che i giovani non sapevano più parlare in italiano. Quindi vedete quante contraddizioni. Questi in un dialetto un dialetto strettissimo lamentavano che i giovani ormai non sanno neanche più parlare in italiano. Invece vedete, l'intersezione è importante, faccio i complimenti al cuoco. Ieri mi ha proposto una carbonara, sì, una carbonara, pensate, però di mare, uno dei primi più buoni che abbia mai mangiato in assoluto. E vedete, è pure un'intersezione gastronomica anche questa. Cosa ci interessa, cosa hai mangiato ieri? Beh, interessa a me. Anzi, ringrazio Andrea che mi sono ritrovato nella Polinesia Veneta ieri, è venuto, anzi ieri l'altro mi pare. Grazie Andrea, grazie anche a Simona, sono passati insieme a Brulla, un'altra presenza a quattro zampe che insieme a Wolf, insieme a Irma popola il Breakfast Club, e quindi mi ha consigliato lui stesso: ma hai mai preso questo primo? Dico: guarda, non ne ho avuto ancora la, così non è mai capitato, insomma domenica ho pranzato così ed è tutti i tempi. Cosa vi ricordano queste 3 note al contrabbasso riprese dalla formazione GERD per la Lea Record? Dan dan, A Love Supreme! Almeno mi ha dato questa immagine e sensazione. Per quanto riguarda invece lo sport, non è Move to Groove, di questo sarà protagonista poi domani insieme a Pietro Rossi e spero Paolo Onofri ai microfoni dei 103.1, ma parliamo di sport anche dai magazine, prima della pubblicità, dalla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore. Sport e arte, ovviamente, è la prima pagina dell'inserto bellissimo del Sole 24 Ore la domenica. Quando lo sport sedusse le avanguardie, si avvicinano i giochi olimpici e cultura in occasione delle imminenti Olimpiadi francesi, un numero speciale percorso dallo sguardo culturale sullo sport a partire dall'esposizione che porta gli atleti al Marmottan di Parigi. Perché Parigi ormai è un unico cantiere tra gradinate, decorazioni per la prossima Olimpiade che apre il 26 luglio. The Coubertin, che ha avuto questo motivo di dare via alle competizioni olimpiche moderne. E diverse sono le opere d'arte per diverse epoche che danno un'attenzione alla competizione, allo sport, altri sport se vogliamo, ma sempre sport assolutamente affascinanti e impegnativi, come ad esempio il canottaggio, oppure amore e ginnastica, quello che viene ripreso nella letteratura di Edmondo De Amicis, portato poi al cinema da Luigi De Filippo Luigi Filippo D'Amico nel 1972, il tema ho aggiunto il teatro, ma in questo caso. E poi abbiamo il tema dell'educazione fisica, che era molto controverso, ad esempio fine 1800 fioccarono subito scherzi, sberleffi, erano anche presi in giro questi atleti anche per l'abbigliamento di particolare comodo nell'esecuzione sportiva e di competizione. Nell'esposizione parigina troviamo diverse opere, come ho detto, da quello che è un contenuto in sport dell'epoca, tra i più importanti il canottaggio o la scherma, anche il duello che sarà motivo del prossimo articolo nell'approfondimento dei magazine. E Pierre de Coubertin, fanatico dello sport che concepiva come attività di élite, anche se infine la democratizzazione giunse in una sempre più diffusa pratica popolare come il ciclismo. Con la fine dell'Ottocento l'attività fisica è percepita in arte come un elemento principale della vita moderna. Gli impressionisti, devoti all'acqua, i suoi mille riflessi, scelgono le competizioni fluviali come tema favorito. Notevoli nell'esposizione Molsey e di Alfred Sisley, mentre la gara più famosa è quella di Argentel, che ispirò il grande Calabot, fanatico di questa attività e costruttore di yacht, Claude Monet, Auguste Renoir, i tuffi, il nuoto, che registrano una vera e propria storia anche dell'abbigliamento, del costume, tra tenute castigate, i primi costumi ricordate, no? E l'esplosione negli anni 20 dei moderni abiti da bagno. Ecco, è un'esposizione che riporta temi importanti, figuriamoci se a Parigi, in vista delle Olimpiadi, non danno anche una possibilità culturale e artistica di approfondimento, di intersezione tra sport e arte. Quindi con Thievery Corporation, che invece apriranno la seconda parte dei magazine dove parleremo di musica, Satellite Shaolin, ascoltiamo un po' di queste note, poi rientriamo perché faremo una monografia su un artista di cui dà notizia il manifesto nell'edizione del sabato, molto interessante. A tra poco. 18:35 minuti, piccola imperfezione nel dare anticipazioni per i contenuti successivi. Tanti sono gli articoli che vi vorrei presentare nei magazine, tanti i titoli interessanti, tante le attinenze anche con il Breakfast Club nelle varie rubriche settimanali, ma la monografia magari la portiamo dopo la conclusione a questo aspetto che è conseguenziale come argomentazione sulla domenica del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato della scherma, no? Di quello che è una storicità in questo caso invece molto più cruenta, ed è il duello, la storia del duello. Viene ripreso da un libro e anche da un catalogo inerente a una mostra sempre a Parigi. Sfidarsi a duello, orgoglio e dignità, prima dello sport al Musée de l'Armée di Parigi. Una mostra rievoca tra quadri, abiti, oggetti il significato profondo del gesto che poi ha portato alla scherma di oggi una civiltà e un'arte. Beh, io sono un po' critico, Il duello non è che sia proprio i padrini, poi finiva con la vita o la morte, cioè un aspetto di ordalia pagana che si perde nella notte dei tempi, come viene riportato anche da Francesco Maria Colombo. La tradizione del duello, oltre che per legge, viene ufficialmente dismessa al termine della grande guerra, del primo conflitto mondiale. Basta morti, basta spari, non ne possiamo più. Ci mancherebbe anche che legalizziamo questa sparatoria o questo sbudellamento ufficialmente, e poi davvero diamo una nefasta continuità a quello che invece deve essere uno stop totale. La storia è importante studiarla, l'onore violato, la riparazione dell'offesa, per questo il guanto della sfida, no? Lo sfidante che sceglie l'arma e tante altre. Non si tratta solo di tutela, dignità personale, ma di un modello di eroismo per l'epoca, di cui Bertolt Brecht disse: beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi. Duelli si trovano nella classicità dell'Iliade, si trovano nella Bibbia, come documenta la letteratura cavalleresca, fino ad arrivare in campo medioevale, il recinto di una sfida che demanda la destrezza dell'eroe e le sorti del mondo intero. Questo duello ordalico, come viene definito dal Sole 24 Ore, il duello come scelta di vita, come ossessione e follia, come accanimento dell'odio, come espressione di arte e di bellezza, come sacrificio in nome della Repubblica, come sfida al fato, ma anche il duello come scontro di civiltà tra due principi: da un lato il farsi giustizia da sé, quell'espressione di valore, dall'altro l'assassinio. Pensate, duello, già lo dice la parola stessa, quanti dualismi vi sono contenuti. Poi conclude un po' a modo suo Francesco Maria Colombo, riportando: ci manca solo questo, possiamo solo sognare immaginando i nostri politici intenti a scegliere l'arma, a presentare il cartello, a nominare i padrini, a incrociare fieramente le spade. Chi mai? Conte contro Tajani, Schlein contro Santanchè, Salvini contro Renzi, ma tutti loro impazienti di scendere in campo nel gelo di una radura fuori Pietroburgo, come fece Pushkin, grande Pushkin, l'8 febbraio del 1837, o se fa troppo freddo in una piazza western di Cinecittà. Perché per quanto riguarda tutto questo, l'aspetto visivo teatrale direi che è ampiamente presente. Storie e storie, la sfidarsi a duello, orgoglio e dignità sulla domenica del Sole 24 Ore. adesso io faccio tutta una morale, però chi è senza peccato scagli la prima pietra. Avete l'antagonista nella vita, ovvio, non sto incitando a tutto ciò, però è normale avere l'antagonista, quella figura in diversi ambiti, che sia sentimento, che sia amicizia, che sia lavoro, che sia vita, quella figura da antagonista che lo sfiderei a duello. Beh, magari sfidatelo in un duello di poesia, non so di letteratura, ecco, a playlist musicale, ecco, queste sono le armi che consiglio. Intanto ogni promessa è debito, lancio la colonna sonora del protagonista in ambito musicale per i magazine di oggi. Abbinato a un grande Alberto Sordi, stiamo ascoltando Storia di un italiano. Lui è Piero Piccioni, con Umiliani, Contro Vaioli e tanti altri ha portato l'idea di colonna sonora, Library, in stile italiano, veramente a dei livelli molto importanti. Curioso come se ne siano accorti all'estero, e per noi è... Sì, è musichetta, ma quale musichetta? Questo è un gran pezzo, strutturato benissimo e di grande gusto d'esecuzione. Grande musicista, Piero Piccioni, pensate, autodidatta, il padre lo voleva a tutti i costi avvocato, per forza, tu puoi suonare, prima diventi un avvocato, diventerà avvocato, per poi gettare la toga alle ortiche in un attimo. Beh, ne ha avuta la possibilità in quanto il padre di Piero Piccioni era un noto esponente della Democrazia Cristiana. Loro piemontesi si trasferiscono a Roma in seguito alla carriera politica del padre. Lui addirittura, come vi ho detto, dopo gli studi abbandonerà immediatamente. Lui musicista, andrà a New York, conoscerà Charlie Parker, ascolterà i concerti di grandi musicisti come Duke Ellington. Insomma, avrà modo di approfondire questa sua capacità di improvvisazione con un grande gusto ed un linguaggio nelle colonne sonore che si mescola con un'ironica sensibilità pop, esattamente come possiamo ascoltare da questa Storia di un italiano, ma anche questo brano che invece rimanda già dal titolo Esculapio, la marcia di Esculapio, il dio della medicina, che poi ha illuminato Ippocrate. Siamo nella sublimazione della medicina e lui è il grande professor dottor Guido Tersilli. Thank you. Un'altra sonorità di Piero Piccioni, I Cavalli, un'altra colonna sonora. Come vi ho detto, un musicista che sa mescolare la grande capacità tecnica, l'aspetto di improvvisazione da autodidatta, la conoscenza di grandi musicisti, da Duke Ellington a John Coltrane a Charlie Parker, l'approfondimento con una personalità che sa flirtare con gusto, con il pop e con una magia veramente molto ironica che fa da collante a tutti questi aspetti. C'era Armando Trovajoli perché? Perché lui è un appassionato di jazz incredibile, come Armando Trovajoli stesso, e si ritrovano a condurre un format radiofonico che appunto venivano poi portate, oltre che le musiche ascoltate durante i loro viaggi negli Stati Uniti d'America, a New York per la precisione, anche queste sonorità che purtroppo sono state definite a metà degli anni 90 in maniera totalmente inadeguata come lounge music. No, non c'entra niente, questa è cocktail music, è colonna sonora per il cinema italiano, è un'altra cosa. Poi chiaramente per motivi commerciali e perché magari l'idea così lounge music forse suona bene, ne è stata poi riportata questa, secondo me, inadeguata terminologia e definizione. Questo è un nostro orgoglio, cioè tanti musicisti italiani, come ho detto, si sono applicati, ma ce n'è una quantità che sono stati poi riscoperti da DJ, produttori, musicisti alla metà degli anni 90. Fino a poco prima era considerata così una musichetta, ecco, ma direi proprio che di musichetta qua ce n'è poco, c'è della gran musica da ascolto con ispirazione jazz e con colonna sonora e con un aspetto visivo, con dei contenuti molto molto di qualità. Case discografiche come la Schema, come la Rai Tempo, tra l'altro c'è una serata di Rocco Pandiani mercoledì 24, mi sa che faccio la lunga, dopo Comini Express mi reco, vi darò poi informazioni più precise per quanto riguarda la serata di Rocco Pandiani, che è un grande ricercatore in ambito di proposta nel contemporaneo di queste sonorità, ricordi ma non solo, anche qualità musicale molto importante. Se ne sono accorti dalla Germania con raccolte della Sonar Collective, della formazione Giazzanova, più volte citata anche al Breakfast Club. Oltretutto, perché ho messo i Thievery Corporation? Perché gran parte delle library di cui vi ho appena dato notizia è stata acquistata dalla 18th Street Lounge, dallo stato di Washington, dove i Thievery Corporation hanno motivo di produrre e rielaborare su questi suoni. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding questa bossa Easy Listening di Piero Umiliani dal film Bob and Helen, che poi è un brano tratto dalla colonna sonora Bob and Helen. Su queste note riprendo Alias del Manifesto. In conclusione, l'ultimo, ce ne sarebbero tanti, perché nel Weekend i Magazine sono una lettura che ispira veramente motivo di approfondimento, però collegamenti con il Breakfast Club ce ne sono, e come nella prestigiosa sede espositiva del Museo dell'Ottocento all'interno del Lungo Ottocento, ne parleremo anche giovedì in conclusione della rubrica In Mostra, un pittore, un artista bolognese, il primo simbolista, Marius Pictor, Mario de Maria e le ombre, la luce dei suoi sogni. Quindi onore al merito a una giovane curatrice, Francesca Sinigaglia, che oltre che la curatela ha anche la gestione di questo museo indipendente, come Alberto Martini, sodale di D'Annunzio. Tra l'altro a D'Annunzio porta quest'opera molto particolare, dove le nuvole rappresentano l'Italia e sopra Fiume vi è un teschio, vi è la morte, insomma, visto anche le situazioni di gravissimi contrasti per l'epoca, no? Una spiccata sensibilità nordica con cui evocò atmosfere e figure trasognate, lunari e macabre. Ma non solo, secondo me De Maria, che è uno degli artisti da me, insomma, più portato anche in frequenza in quanto un ispirato simbolista, e non perché della città di Bologna, ma trovare un simbolista in Italia e in particolar modo a Bologna è indubbiamente un motivo di attenzione. Le sue immagini, le sue figure, il sogno e la realtà come luci e ombre in questa mostra che io consiglio assolutamente al Museo dell'Ottocento, Mario De Maria, Marius Pictor. Questo articolo ho concluso la rassegna stampa culturale di oggi, inizio settimana, lunedì 22 luglio. L'appuntamento è a domani con un Mood Groove che ha un titolo letterario, alla Turgenev, grandissimo scrittore, e Turgenev con Padri e figli ha dato veramente un'idea dell'epoca come cambio generazionale. Noi lo faremo anche per salutare il padre del compianto Kobe Bryant. È scomparso la settimana scorsa Joe Bryant, che abbiamo visto in Italia, atleta, realizzatore, cestista dalla tecnica veramente molto molto forbita e anche da vedere esteticamente bello, oltre che incisivo nelle sue azioni offensive di gioco. Ne parleremo domani, ma non solo, parleremo di questa relazione padri e figli in ambito cestistico. Saremo ovviamente io, Pietro Rossi e Paolo Onofri per il Move to Groove di domani. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con la musica di Bakalov, anche questo è stato strautilizzato dai DJ, dai produttori, Nago, questo brano che è sigla di conclusione per i Magazine odierni. Beh, cos'è? È l'appuntamento a domani alle ore 7 per le super mattiniere e super mattinieri del Breakfast Club dal vostro William Piana. Un caro saluto, ricordo che a breve c'è Liberi Dentro, poi ci sarà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e quindi un buon ascolto sui 103.1 e un buon lunedì. Ciao, a domani!